Io penso però che a monte ci sia una questione, cioè noi quando si tratta di questi temi, cioè quando si tratta di noi, dell'Italia, del senso d'appartenenza, delle ragioni che ci legano e del fatto che ogni tanto, come in qualunque grande nazione del mondo, vale la pena di celebrarsi, noi facciamo esattamente quello che per esempio fa lei, cioè ma tutti quanti, spacchiamo il capello in quattro e siamo lì a vedere se le date appunto che abbiamo scelto sono le date perfette, se gli uomini erano uomini perfetti, se in qualche maniera tutti i nostri trascorsi storici erano all'altezza, se non valga la pena di farlo in un'altra maniera, se culturalmente sia quello l'elemento da valorizzare, il che è straordinario sicuramente, però ci ha man mano tolto il gusto di celebrarci, che è la base del vivere comune di ciascuna nazione nel mondo.